24 mattino estate con Irene Zerbini. E deve essere il primo agosto, buongiorno, benvenuti a tutti. Per questo non sentite la voce di Alessandro Milan, ritornerà a settembre. Una buona giornata a voi, a tutti voi che ci avete seguito fino a questo punto. Ci saranno dei cambiamenti nella scansione del mattino, piccoli, vale la pena di sottolinearli. Dalle 8:20 l'appuntamento con i corrispondenti stranieri, quelli che hanno un doppio sguardo, portano con sé un'altra cultura, ma sono in grado di osservare, conoscere, commentare, capire l'Italia, guardarla da un angolo da cui forse noi l'avremmo trascurata. E ancora alle 8:30 ritorneremo con 24 mattino estate per il dibattito, la discussione della mattinata. Bianco Nero invece con Alessandro Milan ritorna a fine agosto. Le notizie naturalmente agli stessi appuntamenti, ma prima di tutto questo la lettura dei giornali. Buongiorno oggi a Giulia Crivelli. Buongiorno a tutti. Giulia Crivelli, voce del Sole 24 ore, voce soprattutto di Radio 24, English 24. Cosa troviamo in primo piano oggi, Giulia? Ma direi che quasi tutti i giornali hanno due argomenti. Uno è la carneficina in Siria, il governo ha ordinato di sparare sulla folla, sarebbero circa 100 i morti, e poi naturalmente l'accordo che sembrerebbe vicino, ma ce lo sentiamo dire da parecchi giorni, domani è l'ultimo giorno possibile per il default degli Stati Uniti. Allora buona lettura e ci ritroviamo più tardi. In primo piano. Buongiorno, buongiorno a tutti da Giulia Crivelli, ancora buongiorno, una buona giornata, primo agosto, forse inizia veramente l'estate, nelle grandi città c'è un po' di caldo, io consiglio a tutti di stare almeno in queste prime ore del mattino, di stare in casa e leggere con cura i giornali, oggi ci sono tante notizie di cronaca ma anche tanti approfondimenti come vedremo. E inizierei dal Corriere della Sera, come dicevo prima a Irene, i titoli della maggior parte dei quotidiani oggi sono dedicati a questi due argomenti, da una parte quello che è successo in Siria e che probabilmente succederà nei prossimi giorni, cioè un nuovo capitolo nella repressione da parte del governo sulle dimostrazioni antigovernative, e l'altro grande argomento, il rischio default dell'America. Sentirete su questo soprattutto gli aggiornamenti nel GR, quindi leggerò i titoli e magari qualche commento, perché come è davvero una questione che può risolversi di ora in ora. Chi di voi magari è abbonato a qualche servizio di alert ne ha ricevuti questa notte tantissimi, a me è capitato con quello della CNN, e appunto ogni 5 minuti ci sembra ci sia un cambiamento, una speranza. Cominciamo quindi dal Corriere della Sera, che ha questo, quello che in gergo giornalistico chiamiamo palchettone, cioè una specie di titolo che sovrasta tutto il resto della prima pagina ed è appunto dedicato alla Siria. Il regime siriano apre il fuoco sulla folla, più di 100 i morti. Subito sotto il commento, la notizia scusate sull'America, il Corriere della Sera dice vicina all'accordo, è un titolo che abbiamo usato in tanti perché appunto siamo in attesa di una sentenza finale. E poi vi segnalo due articoli che magari dopo leggeremo con più cura. Uno è di Sergio Rizzo, che insieme a Gianantonio Stella firma spessissimo le inchieste sui costi della politica, ma non soltanto, la casta che non vuole pagare le multe, ed è una storia che è stata riportata dal Mattino di Padova, e appunto il fatto che i politici locali, tra i quali il presidente leghista del Consiglio Provinciale di Padova, non vogliono pagare le multe che peraltro hanno preso per aver violato il codice della strada. E poi vi segnalo, visto che domenica scorsa è morta Amy Winehouse a soltanto 27 anni, vi segnalo la rubrica di Francesco Alberoni, Pubblico e Privato, che si intitola questa settimana Il rock, la trasgressione e la stagione delle droghe, originalissima tesi con la quale non credo di essere d'accordo, però vi leggo alcune righe, poi magari ognuno potrà farsi la sua idea. Scrive Alberoni: il rock è americano, nasce dall'espansione di sé, dal superamento delle emozioni normali, è espressione di esperienze parossistiche possibili solo con la droga. E anche chi ascolta questa musica in concerto o in discoteca, spesso per viverla, deve fare lo stesso. E vabbè, questa è l'idea di Alberoni sul rock. Ma passiamo alla Repubblica, che titola Crisi, scontro, governo, parti sociali. Questo è un altro tema che poi troveremo, ma anche questo avrà sicuramente degli aggiornamenti oggi, perché ieri per la politica era una giornata un po' più tranquilla. Oggi si ritornerà a parlare di crisi economica e della possibilità che Berlusconi vada in Parlamento a riferire sulla crisi economica, come chiedono le opposizioni. E poi anche qui cannonate sulla folla, massacro in Siria, con la fotografia che in realtà è un fotogramma tratto da una delle pochissime televisioni che ha potuto mostrare immagini da questo massacro, e la Repubblica parla di bombe per fermare i cortei, 136 morti. E poi ci sono ancora appunto la notizia sull'America, accordo sul filo del rasoio per il debito USA, con un commento di Federico Rampini, che è il corrispondente della Repubblica dagli Stati Uniti. La Stampa, anche qui debito USA intesa a un passo, qui se avremo tempo leggeremo un pezzo una parte del pezzo di Bill Emmott, ex direttore dell'Economist, che pubblica un editoriale intitolato Un patto che non dirà dalla nebbia. Anzi, visto che abbiamo un po' di tempo, vi leggo le prime righe, poi magari riusciremo a leggerne una parte, perché prosegue a pagina 29 all'interno ed è abbastanza lungo. Scrive Bill Emmott: l'accordo quadro sulla manovra fiscale concordato ieri tra democratici e repubblicani al Congresso degli Stati Uniti e la Casa Bianca all'altro capo di Pennsylvania Avenue non è un granché, e non è nemmeno di ampio respiro, tant'è che qui aggiungo io, come dicevo prima, poi questo accordo quadro sta subendo moltissime piccole, medie e grandi modifiche in queste ore. Ma quanto meno è un accordo, e assumendo che sia accettato dal Congresso durante i prossimi due giorni, eviterebbe alle finanze pubbliche una crisi del tutto superflua, ecco il parere di Emmott, potenzialmente in grado di innescare una nuova crisi finanziaria globale. Anche così non è la fine della storia, non a lungo termine. Il direttore di una rivista italiana di recente mi ha chiesto cosa pensassi circa la differenza tra la crisi monetaria dell'Europa e quella dell'America, dicendomi che a suo avviso l'America ha il grande vantaggio di avere un sistema presidenziale. Spero che non lo pensi adesso, ma in ogni caso davvero dovrebbe prestare maggiore attenzione alla Costituzione americana, perché questo dibattito farsesco sul tetto del debito è tutta colpa dei padri fondatori, Jefferson, Washington e gli altri. E appunto, come dicevo, magari dopo ne leggeremo un pezzo, o potete leggerlo voi, prosegue a pagina 29 della Stampa, un'interessantissima analisi di Bill Emmott su questa intricata questione del debito pubblico americano. Il Messaggero, proprio il titolo principale sullo stesso argomento, USA intesa vicina sul debito, però visto che si parla di economia, nel catenaccio, quello che noi chiamiamo catenaccio noi giornalisti, che è la riga sotto il titolo, PD e UDC incontro con le parti sociali, sì di Confindustria, quindi la crisi americana che è, come scrive Bill Emmott, potrebbe innescare una crisi globale legata in qualche modo anche, o comunque uno spunto per parlare anche di quella italiana, e che ripeto, a Berlusconi ne parlano molti giornali, ne parleremo sicuramente nei GR, è stato chiesto di andare in Parlamento, tant'è che c'è un'intervista sul Messaggero a Paolo Romani, ministro dello sviluppo economico, che il Messaggero sintetizza così nel titolo: governo pronto a intervenire in Parlamento. Dal Messaggero vi segnalo una notizia che solo il Messaggero quotidiano di Roma ha in prima pagina, ed è quella sul giorno nero, così lo definisce il Messaggero, di Napoli e di Roma dal punto di vista dei disagi per chi viaggiava in treno. Guasto al sistema elettrico, cancellate diverse corse, disagi per ora a Termini, dopo lo ricordiamo tutti quelli dell'altra grande stazione di Roma, Tiburtina, per un altro guasto elettrico, deraglia un treno vuoto, circolazione in tilt e assalto all'alta velocità. Prima pagina del Giornale, un titolo completamente diverso, ed è casa, Fini sgrida Tremonti. Il presidente della Camera bacchetta al ministro dell'Economia per la storia dell'appartamento. Ma Giulio almeno si è dimesso da inquilino. Gianfranco neanche da cognato e sogna ancora il governo tecnico. Forse qualcuno ricorderà che l'anno scorso a quest'epoca stavamo parlando della storia della casa di Monte Carlo di Gianfranco Fini, che poi si è un po' sgonfiata come inchiesta giornalistica, ma che ogni tanto torna a saltare fuori. L'editoriale è di Vittorio Feltri, e poi c'è una in prima pagina sul Giornale, quella che viene definita la mappa del malaffare PD, hanno 101 indagati, altro che fango, l'ha scritto Fabrizio Rondolino, che tra l'altro in passato è stato portavoce di D'Alema, quindi in un certo senso potrebbe essere considerato una persona super partes. C'è questa mappa dell'Italia e figurano alcuni volti e soprattutto i numeri appunto degli indagati che appartengono al PD. Sulla prima pagina dell'Unità una copertina ancora diversa, e qui c'è la notizia che domani, che è l'anniversario, il 31esimo anniversario della strage di Bologna, alla stazione di Bologna, e per il secondo anno l'esecutivo non ci sarà, scrive l'Unità, che titola governo assente, nessun ministro domani a Bologna, protestano i familiari delle vittime della strage fascista, atto grave. E ci sono poi due pagine, la 8 e la 9, all'interno dell'Unità dedicate a questa questione. La prima pagina del Secolo XIX, un giornale che il giornale di Genova, quindi magari fuori da Genova, fuori dalla Liguria, non capita spesso di vedere o di comprare. Anche qui però il titolo principale è Il debito, che viene definito l'incubo degli Stati Uniti, Obama va a oltranza, e poi Cannonate sulla folla, massacro in Siria. C'è un interessante recupero dal passato di Claudio Guidi, che in prima pagina pubblica un articolo ricordando che Gorbaciov all'epoca del massacro di Tiananmen pare avesse detto: 3.000 morti a Tiananmen hanno fatto bene. Sarebbero i verbali di una frase pronunciata un mese prima che crollasse il muro di Berlino, cioè nel 1989. In primo piano. Rieccoci, ancora una buona giornata a tutti da Giulia Crivelli, e ricominciamo a guardare le prime pagine dei giornali, dove abbiamo visto due sono le notizie principali: la repressione in Siria con l'ordine del governo di sparare sulla folla, più di 100 i morti, e il default americano. Arriviamo finalmente alla prima pagina del Sole 24 Ore, dove non ci sono queste due notizie, ma per la semplice ragione che il Sole 24 Ore del lunedì è un'edizione di approfondimento, di fatto un vero e proprio settimanale che viene chiuso al venerdì sera, e quindi ovviamente non può avere le notizie che hanno gli altri giornali di lunedì. E quindi il Sole 24 Ore del lunedì ha invece un approfondimento, appunto, ed è il titolo di prima pagina: aumenti di mezza estate. Dalle utenze alle tariffe, dalle addizionali ai ticket sanitari, voce per voce i rincari per le famiglie. Ci sono due pagine all'interno, in particolare la pagina 3, e con una infografica con tutti questi aumenti che vanno, appunto, attraversano l'Italia e riguardano un po' tutto. Una specie di memorandum più che una guida, perché purtroppo sono tasse e aumenti che quasi tutti non avremo possibilità di evitare, però almeno lo sapremo. La Gazzetta dello Sport decide di titolare sull'Inter, sia per ragioni di mercato, ma anche perché ieri l'Inter è stata, scrive la Gazzetta, sballottata, riferendosi a Balotelli naturalmente, dal Manchester City di Mancini, allenato da Mancini, ex allenatore dell'Inter. Super Mario domina e alla fine il risultato è stato 3-0. Ma c'è anche, appunto, la notizia di mercato: per Tevez c'è Maicon e To tratta Casemiro più vicino. Moratti incontra il camerunese che piace al City, potrebbe restare con un ritocco dell'ingaggio. Snyder United, giochi aperti. Naturalmente all'interno della Gazzetta ci sono poi anche tutte le altre notizie di calciomercato. Arriviamo alla prima pagina del Foglio. Il Foglio, anche in questo caso il Foglio del lunedì, è un'edizione particolare che riassume un po' il meglio dei quotidiani, quello che secondo il direttore del Foglio, Giuliano Ferrara, è stato il meglio dei quotidiani della settimana precedente, e poi spesso anche degli approfondimenti. In questo caso, ed è l'unico giornale che praticamente ne parla oggi, quindi onore al Foglio, il titolo di apertura è sulla carestia in Somalia. Il titolo: la carestia di cui l'Occidente non parla. Migliaia di morti, milioni di affamati disperati in Somalia e nel Corno d'Africa. Gli aiuti dove sono? E c'è tutto un collage di quel poco, aggiungiamo noi, che è uscito nella scorsa settimana su questa crisi sui giornali italiani. Poi vi segnalo l'editoriale, anche in questo caso sul Foglio del lunedì c'è sempre un editoriale di Giuliano Ferrara che si distingue, perché alla fine è firmato con un elefantino rosso, e ve ne leggo una parte perché è molto interessante. Si intitola Tremonti e Bersani, l'incapacità di scusarsi e di spiegarsi. Sono sinceramente smarrito, non capisco perché un uomo intelligente e scaltro come Giulio Tremonti non ha affittato un appartamento privato decoroso, in un certo senso comodo e modesto, firmando un regolare contratto e pagando con regolari bonifici bancari. Perché in alternativa non ha preso alloggio in un albergo? Perché si difende in modo così rozzo, dicendo che non ruba, essendo ricco di famiglia, che era spiato dal corpo armato, la finanza che dirigeva? È purtroppo una tradizione della politica italiana e della sua gens, sia nuova sia antica. Fanno delle stupidate e poi le moltiplicano con risibili argomenti a difesa. Soprattutto non si scusano per comportamenti inauditi sul piano dello stile pubblico. Perché? Poi prosegue il pezzo di Ferrara, e ne ha naturalmente anche per Bersani. La mancanza di saggezza e di modestia che affligge la politica italiana è funesta. Ne è malato anche Pierluigi Bersani, segretario del PD. Con le sue grottesche class action contro i giornali, con il suo linguaggio minatorio verso chi discute i comportamenti dei suoi apparati e dei suoi più stretti collaboratori. Invece di fare un discorso serio su soldi e politica, che qui su queste colonne chiediamo alla classe dirigente di sinistra da molti anni, invece di difendere le scelte territoriali di governo che ha condiviso e che ha anche mediato nelle sue funzioni politiche di amministratore, e qui aggiungo io il riferimento naturalmente alla vicenda di Penati, che è indagato a Milano, ex presidente della provincia di Milano e ora indagato per tangenti. Ecco il risentimento frustrato, prosegue Ferrara, di chi si vede dato in pasto a un'opinione moralizzatrice che contribuisce a creare, dando spazio ai mozzorecchi di tutte le risme. E su questa questione vi segnalo sempre dal Foglio, mi piacerebbe avere tempo per leggerlo tutto, ma vi consiglio di comprare il Foglio di oggi e leggerla, un'intervista che occupa un'intera pagina. È un'intervista fatta da Scalfari, ma è stata fatta nell'81, Scalfari, fondatore della Repubblica, attuale editorialista. È un'intervista a Enrico Berlinguer che si intitola, o che meglio, che il Foglio reintitola, I partiti sono macchine di potere. Vi assicuro, ci sono alcuni passi che sembrano scritti oggi. Vi leggo un paio proprio appunto, dei pezzi per stuzzicarvi appunto a leggerla tutta. Per esempio c'è questa domanda. Lei ha detto varie volte che la questione morale oggi è al centro della questione italiana. Perché? E Berlinguer risponde nell'81. La questione morale non si esaurisce nel fatto che essendoci dei ladri, dei corrotti, dei concussori in altre sfere della politica e dell'amministrazione bisogna scovarli, bisogna denunciarli e bisogna metterli in galera. La questione morale nell'Italia di oggi fa tutt'uno con l'occupazione dello Stato da parte dei partiti governativi e delle loro correnti, fa tutt'uno con la guerra per bande, fa tutt'uno con la concezione della politica e con i metodi di governo di costoro che vanno semplicemente abbandonati e superati. Ecco perché dico che la questione morale è il centro del problema italiano. Ecco perché gli altri partiti possono provare ad essere forze di serio rinnovamento soltanto se aggrediscono in pieno la questione morale andando alle sue cause politiche. E poi una parte sulle questioni economiche, sull'austerità. Sapete che in molti in questi giorni parlano di austerità. Calderoli ieri ha chiesto ai politici di non andare in vacanza per dare un segnale di austerità. Abbiamo visto tutti gli aumenti e le nuove tasse sul Sole 24 Ore. Saremo tutti chiamati a un'austerità. Ecco, nell'81 Scalfari chiedeva a Berlinguer: il PC agli inizi del 77 lanciò la linea dell'austerità. Non mi pare che il suo appello sia stato accolto con favore dalla classe operaia. Forse quando lei ha ricordato che il vostro rapporto con le masse si era indebolito, pensava al fallimento della vostra campagna per l'austerità. E Berlinguer risponde, scusate, noi sostenemmo che il consumismo individuale esasperato produce non solo dissipazione di ricchezze, storture produttive, ma anche insoddisfazione, smarrimento e infelicità, e che comunque la situazione economica dei paesi industrializzati, di fronte all'aggravamento del divario al loro interno tra zone sviluppate e zone arretrate, e di fronte al risveglio e all'avanzata dei popoli di paesi ex coloniali e della loro indipendenza, non consentiva più di assicurare uno sviluppo economico e sociale conservando la civiltà dei consumi, con tutti i guasti, anche morali, che sono intrinseci ad essa. E qui mi introduco un attimo io. Si parla di droga e mi riallaccio a quella sbrigativa liquidazione della questione droga da parte di Alberoni, che la Lega al rock, scriveva invece Berlinguer. La diffusione della droga, per esempio, tra i giovani è uno dei segni più gravi di tutto ciò, e nessuno se ne dà realmente carico. Un'ultimissima domanda, perché anche questa è attualissima e mi sembra incredibile, leggendo queste parole. E il costo del lavoro le sembra un tema da dimenticare? Sentite cosa risponde Berlinguer, allora segretario del partito che allora si chiamava ancora Comunista Italiano. Il costo del lavoro va anch'esso affrontato nel complesso contenuto, operando soprattutto sul fronte dell'aumento della produttività. Ecco, questa era l'intervista dell'81 di Eugenio Scalfari a Berlinguer. Ma torniamo un po' alle questioni, dicevamo austerità. Ecco, sul Sole 24 Ore c'è un articolo di Fabrizio Galimberti che si intitola Mutui al riparo dal rischio tassi. Le tensioni sui titoli pubblici non sembrano destinate a preoccupare, perché la domanda che molti si fanno e a cui Fabrizio Galimberti in questa puntata del manuale anticrisi che il Sole 24 Ore ha lanciato all'inizio della scorsa settimana, questa infatti è la puntata numero 13, la domanda è: che cosa accadrà ai mutui? I tassi aumenteranno? E la risposta, sinteticamente, ma in realtà è quasi una mezza pagina, è: le tensioni sui titoli pubblici di queste settimane non sembrano destinate a modificare, almeno non in modo rilevante, lo scenario dei tassi dei mutui, che, essendo legati all'andamento dell'economia e della domanda, dovrebbero restare a livelli bassi. Dal Sole 24 Ore vi segnalo anche un articolo di Valerio Castronovo: al turismo non basta il marketing, promozione necessaria, ma serve anche una nuova cultura dell'ospitalità. Si ripete spessissimo, ed è vero, che il turismo è una grandissima risorsa per il nostro paese, che potrebbe contribuire molto più di quello che già fa al PIL, al prodotto interno lordo. Bisogna però sicuramente fare alcune cose, e Valerio Castronovo dà alcuni suggerimenti. Vi leggo le ultime parole del suo pezzo. Tuttavia, se da un lato è indispensabile un'adeguata strategia del coordinamento dell'offerta e del marketing, di concerto con i rappresentanti delle organizzazioni di categoria, per porre rimedio a una miriade di iniziative frammentarie, occorre anche un'appropriata cultura dell'accoglienza da parte degli operatori del settore, che sovente lascia desiderare. Altrimenti c'è il rischio che si riduca una fonte di ricchezza che contribuisce per oltre il 10% alla formazione del nostro PIL. Sempre dal Sole 24 Ore, sempre in tema di consigli pratici, la pagina Tutto Risparmio, questa è un'altra iniziativa lanciata dal Sole 24 Ore, che appunto torna ogni giorno con argomenti diversi, e la puntata di oggi è dedicata alle carte di credito, una pagina intera curata da Matteo Prioschi. La carta di credito giusta per ogni tasca, il cosiddetto denaro di plastica, dalla famiglia al lavoro, come muoversi facendo attenzione ai costi tra le tante possibilità offerte dal mercato. E poi invece un approfondimento di Mario Cianflone, che sul Sole 24 Ore si occupa soprattutto di auto, ed è il ritorno del maggiolino. La Volkswagen infatti lancerà la nuova Beetle, quella che in inglese si chiama Beetle, che poi tradotta è maggiolino, che debutta in strada dopo l'anteprima al Salone di Shanghai, reinventata un'icona che così diventa più sportiva e curata nel look. Un altro approfondimento dal Sole 24 Ore del lunedì: il cartellone di agosto, è una iniziativa anche richiamata in prima pagina, verso il sud a ritmo di musica, molti concerti e festival che nel tempo sono diventati un appuntamento nazionale. Ecco, qui appunto c'è, con tanti, anche in questo caso con un'infografica molto, molto facile da consultare, i principali appuntamenti dall'Umbria alla Sicilia per l'agosto. Torniamo alle prime pagine, o comunque agli articoli che così mi piacerebbe leggervi almeno in parte. Sono gli approfondimenti che si possono magari diversi da giornale a giornale. Sul Corriere della Sera, per esempio, dalla prima pagina parte un pezzo del genetista Edoardo Boncinelli, che poi continua all'interno, e riguarda questo studio inglese. Siamo al massimo, secondo lo studio inglese il cervello è troppo pieno e non miglioreremo, scrive Boncinelli. Noi uomini apprezziamo molto l'intelligenza, forse oltre i suoi meriti effettivi, e pensiamo di essere, grazie allo sviluppo del nostro ingegno, la cosa meglio riuscita dell'evoluzione biologica, e magari il fine ultimo dell'evoluzione stessa. Qualcuno si interroga sul futuro della nostra intelligenza, vale a dire su come potremmo diventare. Un articolo di ricercatori dell'Università di Cambridge in Inghilterra sembra raffreddare i nostri entusiasmi e condannare il nostro cervello a rimanere al più quello che è, per raggiunti limiti di sviluppo. In primo piano. Rieccoci ancora buongiorno da Giulia Crivelli. Stavamo guardando, dopo aver visto sulle prime pagine di tutti i quotidiani la crisi americana e la repressione in Siria, stavamo guardando gli approfondimenti, e quindi torniamo sul Corriere della Sera, che non è l'unico giornale a parlarne, però dedica grande spazio a questa vicenda che viene dall'Iran. Una donna sfigurata con l'acido, che ha accettato una compensazione in denaro e ha perdonato il suo aguzzino, che per la legge avrebbe dovuto essere accecato per la legge del taglione. Amnesty International aveva paragonato la sentenza alla tortura e chiesto di non eseguirla. Questa donna si chiama Amenè e voleva la punizione esemplare per impedire ad altri uomini di fare lo stesso, ma poi ha cambiato idea, e così al sangue già versato almeno non se ne aggiunge altro. E una notizia che trovate con anche altri commenti su molti giornali. E dal Corriere della Sera invece, questa notizia l'ho vista solo sul Corriere della Sera, c'è un bilancio a un anno dallo, forse lo ricorderete, alla vicenda dei minatori rimasti intrappolati il 5 agosto dello scorso anno in una miniera di San José in Cile. Erano 33, furono liberati con uno spettacolare recupero, scrive il Corriere della Sera, il 13 e il 14 ottobre sempre dello scorso anno, e ora scrive il Corriere, i migratori cileni senza più soldi. Fateci tornare giù nel pozzo, è naturalmente un'esagerazione, perché la celebrità non è bastata a cambiare le vite dei 33, scrive il Corriere della Sera, o meglio scrive da Rio de Janeiro Rocco Cotroneo, i sopravvissuti sono stati accolti come star in tutto il mondo per poco tempo, ma poi alla fine, scrive appunto il Corriere della Sera, non sono felice, poi soprattutto forse usciti dalle, così, da questo momento di celebrità e magari anche di relativa prosperità economica, ora sono di nuovo alle prese con le difficoltà che avevano prima, cioè le difficoltà di una vita durissima, anche quella dei minatori. Dal Corriere della Sera, questo purtroppo vale solo per chi può comprare il Corriere a Milano o in Lombardia, però è molto bello, c'è un articolo di Philippe Daverio, alla scoperta delle bellezze nascoste, 5 itinerari nella Milano d'agosto. Lo dico sempre, Milano d'agosto in particolare, anche durante l'anno, tutto sommato guardandola bene, è molto bella, ha un sacco di bellezze nascoste più che altro, e Philippe Daverio ce ne indica 5. E dal Corriere della Sera, la pagina delle idee e opinioni, pagina 31, vi segnalo un articolo che almeno parla, anche se di striscio, della Somalia, che dicevo è la grande questione dimenticata di questi giorni. È un intervento di Umberto Veronesi, l'oncologo, che è stato anche ministro della salute, e sapete che il prossimo Expo, quello di Milano del 2015, è dedicato, il tema è nutrire il pianeta. Allora scrive Veronesi, l'Expo contro l'ingiustizia alimentare, che è una delle peggiori iniquità del presente, un'offesa alla civiltà di fronte alla quale non possiamo rimanere inerti. Nei paesi in via di sviluppo ci sono 840 milioni di persone che soffrono di malnutrizione cronica e 40 milioni, di cui 15 milioni di bambini, che ogni anno muoiono di fame. In tutto questo la popolazione mondiale è in crescita, si stima che dagli attuali 6,7 miliardi essa raggiungerà i 9 nel 2050. A fronte di tutto ciò, sempre meno terre da destinare all'agricoltura saranno disponibili anche a causa dei cambiamenti climatici. E per questo, scrive Umberto Veronesi, è così importante il tema dell'Expo 2015, appunto nutrire il pianeta. Dalla Repubblica vi segnalo un ricordo di Roberto Saviano, dello scrittore Roberto Saviano, editorialista anche di Repubblica, di Giuseppe D'Avanzo, il grandissimo giornalista che è morto sabato all'improvviso, gli è venuto un infarto, aveva soltanto 57 anni, e vi leggo piccoli brani di questo lungo ricordo di Roberto Saviano, che Repubblica ha intitolato «Che cosa mi ha insegnato l'amicizia di D'Avanzo?». Quando ci incontravamo per pranzo, Peppe mi faceva trovare la mozzarella, che io adoro, mentre lui invece come antipasto mangiava le fragole. Non l'avevo mai visto fare. A fine pasto c'era sempre, mentre si accendeva il sigaro, il momento in cui si parlava di Napoli. Entrambi sono naturalmente napoletani. Sempre, per nessuno tranne che per i meridionali, è così. Se scrivi, se canti, se giochi e vieni da Napoli, sarai sempre il giornalista napoletano, scrittore napoletano, pittore napoletano. Quel napoletano non te lo toglierai mai. E poi scrive ancora Roberto Saviano, capitava spesso che dopo un forte impegno giornalistico Peppe sparisse. Il giornale lo cercava, così come gli amici e i colleghi, ma lui si inabissava. Il giornalismo, anche se hai un'anima forte e una morale rigorosa, è un territorio torbido. Quando poi si fanno inchieste, tragedie, morti e crimini diventano parte della tua quotidianità. Con il tempo e l'abitudine tendono inevitabilmente a diventare solo qualcosa da mettere in prima pagina. Perdono il loro pathos, il loro valore di coscienza. Dopo un po' ne vieni anestetizzato. Una morte non ti spaventa più, un omicidio lo vedi solo come un titolo sul giornale. I rapporti diventano utili solo se convenienti a trovare notizie o avere contatti con un certo mondo. Peppe metteva sé al riparo da tutto questo, ritirandosi dopo esserci stato in mezzo alle cose senza risparmiarsi, come se il darsi troppo rischiasse di compromettere la sua anima. Così scrive Roberto Saviano ricordando Giuseppe D'Avanzo, scomparso sabato. Dalla Repubblica vi segnalo un approfondimento, una pagina intera, sulla mattanza, questa pratica terribile, questo modo terribile di uccidere i tonni. C'era una volta la mattanza, così il tonno di Carloforte finisce nelle gabbie di Malta, nel Mediterraneo l'ultima rivoluzione della pesca. In Sardegna sono sempre meno gli esemplari catturati con questo metodo, il più cruento, scrive Repubblica. Dalla prima pagina della Stampa vi segnalo una notizia molto curiosa, scritta da Marco Zatterin, raccontataci da Marco Zatterin, che in questo momento è il corrispondente da Bruxelles della Stampa. La notizia è: più di 1000 in fila per una divisa al sole e la corsa dei poliziotti olandesi per il commissariato di Sint Maarten alle Antille. Si sono messi in fila a centinaia per un posto al sole nella terra dove l'estate non finisce mai. E poi vi dicevo, non c'è tempo di leggerlo, ma dalla prima pagina inizia e poi continua a pagina 29 l'analisi di Lucia Annunziata sulla crisi siriana, di padre in figlio. Vi leggo soltanto le prime righe: inviando i carri armati contro la popolazione della città di Hama, la famiglia Assad si conferma la più capace genia regnante oggi nel Mediterraneo della Mezzaluna, se per capacità si intende saper conservare il proprio potere con crudeltà e sprezzo di ogni interesse umano che non sia il proprio. E a pagina 29 appunto questa interessante analisi di Lucia Annunziata. Dalla Stampa, una pagina intera dedicata a Zedda, questo Massimo Zedda, questo sindaco ragazzino, soprattutto per gli standard italiani, ha 35 anni, è stato da poco eletto sindaco di Cagliari, il sindaco ragazzino che ha scelto l'austerità, il primo cittadino, basta con le auto blu e i biglietti gratis a teatro. Sapete che i politici, i sindaci spesso, i politici in generale hanno molti privilegi, tra cui appunto, pur avendo stipendi d'oro, biglietti gratis per tutto, anche per il teatro scopriamo, e questo sindaco vuole dare il buon esempio. Dalla Stampa vi segnalo un approfondimento sulla questione delle carceri, una questione terribile di cui si è occupato, che io mi ricordi, Marco Travaglio di recente con un'inchiesta di due pagine sul Fatto Quotidiano. Sovraffollamento delle carceri è tremendo, e in questo caso la Stampa si concentra sulle carceri piemontesi, che definisce una polveriera pronta a scoppiare. Un'indagine denuncia dei radicali che spessissimo si sono occupati di questo tema: troppi detenuti aumentano così la violenza e i suicidi. Una ultima segnalazione, abbiamo detto è il primo di agosto, iniziano le vacanze, una segnalazione dal Messaggero, un po' di cronaca perché le strade, lo abbiamo letto su molti giornali, meno code quest'anno, forse più partenze intelligenti, forse semplicemente meno gente in vacanza, strade vuote, aeroporti pieni, la vacanza si prende al volo, caselli deserti al sud, a Fiumicino code agli imbarchi. E poi un gustoso approfondimento su questa abitudine di portarsi il tablet, che sia iPad o un altro tipo di tablet in spiaggia, è un'intervista a un comico, Antonio Giuliani, che prende in giro quelli che in spiaggia rimboccano la copertina al tablet. Cioè l'iPad sabbioso, sì. Anche di questo si è occupata oggi Giulia Crivelli. Grazie, davvero gustosa questa tua lunga scampagnata sui giornali. Parlo di scampagnata perché ci sono moltissimi articoli sulle ferie: si fanno, non si fanno, ci sono, c'è la crisi, non c'è la coda, non si riesce a trarre una conclusione. Che idea ti sei fatta? Sì, e poi anche questa idea che usiamo sempre di più il telefonino, anche se magari siamo a 20 metri dalla spiaggia, perché abbiamo il navigatore, ci piace usarlo. Per dirci dov'è la spiaggia più vicina, magari dov'è la spiaggia per dire che accetta i cani, succede anche questo, quindi insomma, però i gadget, la sabbia scoccia sui gadget, per questo la copertina al tablet. Abitudini irrinunciabili. Grazie a Giulia Crivelli, che ritroveremo naturalmente alla stessa ora domani mattina per la lettura dei giornali. E tra poco le notizie. Vi ricordo, oggi in 24 mattina dalle 8:30 parleremo di permesso a punti per gli stranieri, è la giusta via all'integrazione. 24 mattino estate con Irene Zerbini. Ancora ben ritrovati, un test d'italiano, educazione civica, il permesso a punti per immigrati, in cosa consiste esattamente questo, quanto cercheremo di chiarire dalle 8:30 con i nostri ospiti, con voi soprattutto se volete chiamare 800 24 00 24, per i messaggi sms invece 349 238 6666. Siamo sicuri che essere simpatici sia positivo o almeno innocuo? Un osservatore di usi e costumi italiani ora smaschererà il lato oscuro della simpatia del bel paese. Visti da fuori. Buona giornata, primo agosto e i blocchi di partenza, le nostre conversazioni con i corrispondenti stranieri in Italia. Tutti più o meno provano a descrivere questo paese, ci riescono a tratti, perché vedono cose che gli italiani non vedono, amano cose, persone, atteggiamenti che gli italiani non amano, notano dettagli. Comunque, cominciamo subito e capirete di cosa parlo. Con l'autore di uno degli articoli più azzeccati di quest'opera ardua di descrivere l'Italia. Lui si chiama Peter Popham. Welcome on our show, Peter. Thank you, grazie. Peter è in collegamento con noi da Londra, è un corrispondente veteran, come si dice, cioè molto esperto per la testata di Independent, e vorrei chiederti, quando arrivi all'aeroporto, a Milano piuttosto che a Roma, da cosa capisci di essere in Italia? Ah, it's è sempre la stessa cosa, Irene. Arriviamo a, diciamo, l'aeroporto di Linate. Nella sala di all'ingresso ci sono due ingressi possibili per EU, passaporti EU e passaporti non EU. E noi, essendo inglesi, cioè con un senso molto forte dell'importanza della legge, facciamo una fila sempre tutti sul lato EU, e io, essendo anche noi di Europa. Invece, perché siamo arrivati direttamente da Londra, l'altro lato è totalmente vuoto, ma in Italia non è vuoto, perché tutti gli italiani sullo stesso volo vanno nella fila per EU e anche nella fila per non EU. Perché cioè vanno nella fila che trovano più corta. Ma ovviamente è molto più rapido, perché ci sono poche gente. Questo per me è sempre un bel benvenuto in Italia, perché si capisce che qui in Italia la legge non è tutto. C'è sempre la possibilità di interpretare, di trovare un modo più simpatico di fare le cose. Comunque, chissà, quando adotterete l'euro, anche voi potrete fare la doppia fila. No, adesso scherzi a parte, Peter. Scherzi a parte. Tu hai sintetizzato benissimo in un pezzo magistrale che hai scritto per l'Independent il 21 luglio, che anche colui che sta allo sportello fa gesto di fare la fila da questa parte, quindi ha una simpatia verso chi agisce così. Esatto, questa è la cosa più importante e più essenziale, secondo me. C'è un rapporto di simpatia fra l'ufficiale che guarda il passaporto e il viaggiatore. Conviene a tutti e due a fare le cose più rapidamente. Invece noi inglesi in particolare abbiamo l'abitudine di pensare la legge è la legge. La legge è importante a mantenere, a seguire la legge dappertutto. Dunque, gli italiani sono più simpatici che corretti, mentre gli inglesi sono ben più attenti alle regole. Tu stesso scrivi, ce ne andiamo in giro con i nostri problemi, le nostre preoccupazioni scritte in faccia, ed è come avessimo un poliziotto nella testa. Le transazioni della vita quotidiana sono molto funzionali, senza spazio per il piacere. Questo vuol dire che un paese così simpatico come l'Italia è anche il posto migliore dove vivere, Peter? No, io vivo a Milano, io sono abituato a questa società e vivo a Milano da 8 anni, ma il problema è che questa capacità di essere simpatico è devo dire che è un modo anche da ingannare i poveri stranieri, che credono nella sincerità della simpatia, e non è sempre vero che la simpatia è sincera. E quindi gli italiani riconoscono gli stranieri sulla distanza a volte, soprattutto quando ci sono transazioni commerciali, bar, ristoranti, alberghi. In Inghilterra i sorrisi non sono così comuni, invece in Italia è quasi garantito che ci sono sorrisi dappertutto. E io ho sviluppato nel mio pezzo un'idea che trovo suggestivo, che la storia dell'Italia è molto diversa dalla storia dell'Inghilterra. Noi abbiamo un'invasione dalla Francia 1000 anni fa, invece in Italia ci sono un'esperienza molto lunga dell'incursione dall'estero, anche ora. Quindi la tua teoria storica, molto valida, allaccia la simpatia che gli italiani avrebbero sviluppato come arma di difesa, quasi per disarmare i diversi invasori. Perfetto, l'ha spiegato in modo molto chiaro, sì. È un modo di difendere il territorio con i sorrisi, con la simpatia, che è spesso è molto sincero fra gli amici, dentro un paesino, ma è un modo di difendere il territorio contro gli stranieri che vengono troppo spesso. E poi diventa un alibi anche per permettere comportamenti che in Inghilterra sarebbero impensabili. Citi la corruzione, citi il nepotismo nelle università e non solo. Quindi questo carattere amichevole degli italiani in realtà nasconderebbe non solo una certa superficialità, ma anche una certa propensione all'essere sottomessi. In queste settimane c'è un esempio molto interessante, molto suggestivo. Come sanno tutti, avevamo diciamo, questo scandalo del hackeraggio della stampa Murdoch. Intercettazione, diciamo, insomma. Intercettazione abusiva. In tanti aspetti sembra molto simile a uno scandalo all'italiana. La differenza fra finalmente, devo dire, dopo tanti anni, abbiamo riuscito a risolvere a un certo punto questo scandalo, almeno al punto che tanti persone di potere e di ricchezza hanno dimesso in queste settimane, che per noi ci dà un bel senso di sollievo, che di catarsi quasi. Sì, cioè, esatto. C'è stato lo scandalo, non vi siete fatti mancare niente nemmeno voi con News Corp, ma nonostante l'imbarazzo di Cameron, dei politici, degli intrecci, c'è la sensazione che si ricominci. Questa è la cosa che la grande differenza. Devo dire che questa è una cosa salutare, un segno della salute della società. Invece l'impossibilità in Italia di fare qualcosa, di che cambiare rinnovi il governo anche a questo punto, è un prova di un certo debolezza, devo dire, che ho collegato della società. E infatti vi lascio immaginare quali sono le conclusioni del nostro corrispondente dell'Independent sul governo Berlusconi e gli scandali che a più riprese l'hanno colpito. Potete leggere l'articolo di Peter sull'Independent o tradotto in Italia sull'Internazionale, se non sbaglio. Sì, è vero. Internazionale mi ha dato l'onore di tradurlo. Grazie anche per essere stato con noi questa mattina. Buona giornata. Grazie a voi. Buona giornata. 24 mattino estate. La cooperativa Muratori cerca cuoco con esperienza oppure una cameriera per servizi ai tavoli. Questi sono alcuni dei test, delle domande, dei quiz che vengono sottoposti agli stranieri, già quelli che richiedono un permesso lungo, i soggiornanti lunghi come sono stati definiti, e verranno sottoposti d'ora in poi anche ai nuovi ingressi. Ci sarà insomma un test di italiano educazione civica in questo permesso appunti per immigrati. È la via giusta all'integrazione? Ce lo chiederemo tra pochissimo insieme ai nostri ospiti per questa puntata di 24 mattino estate. E partiva l'emigrante e portava le provviste e 2 o 3 pacchi di riviste. E ancora buongiorno da Irene Zerbini, 36 minuti dopo le 8, questo omaggio a Rino Gaetano per ricordare che quella che oggi è la storia delle altre popolazioni, fino a poco fa è stata anche la nostra. Forse nessun popolo al mondo ha tanti stranieri, se ne contano, ha tanti immigrati all'estero, se ne contano 60 milioni, certo il conteggio non si può fare dai passaporti, ma anche dalla discendenza, da quanto viene segnalato dalle associazioni nei diversi distretti esteri. Dicevamo, tra poco cambieranno le cose qui in Italia. Come esattamente, visto che è stata fatta anche molta confusione su questa questione del permesso appunti per immigrati? E per chiarire la questione comincerei a dare il buongiorno a un giurista, Paolo Morozzo della Rocca. Buongiorno professore. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Tra l'altro costituzionalista, docente nell'Università di Urbino ed esperto giuridico di questioni di immigrazione e responsabile legale della comunità di Sant'Egidio. Alcuni punti fondamentali di questa nuova normativa: non è ancora legge dello Stato, quando entrerà in vigore, quando sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale? Ma guardi, in realtà parliamo di un regolamento amministrativo che entrerà in vigore fra 4 mesi e che corrisponde però a una norma di legge già in vigore, che è l'articolo 4 bis del testo unico, che è stato introdotto dalla legge 94 del 2009, il cosiddetto pacchetto sicurezza. Quindi, al di là dei tecnicismi, gli immigrati d'ora in poi dovrebbero sostenere anche un test di italiano, e chi non passerà questo esame verrà espulso, tornerà da dove è venuto. Dunque, in realtà l'idea che si persegue è quella di insegnare l'italiano agli stranieri, che di per sé è una buona idea, naturalmente, siamo tutti d'accordo. Il problema è che viene realizzata attraverso cattive idee. Ora verrà espulso chi perde i punti che gli vengono dati con questo accordo di integrazione nel momento in cui stipula il suo primo permesso di soggiorno. Forse la domanda da farsi è: ma per insegnare l'italiano agli stranieri e per aiutarli a inserirsi, basta dare loro un obbligo di apprendimento? Non bisognerebbe invece creare una strategia di integrazione nella quale concorsi di italiano e favorendo l'apprendimento dell'italiano gli stranieri sono aiutati e incoraggiati a imparare? Dunque, una domanda preliminare per capirci: lei è favorevole al fatto che esistano dei criteri che regolamentano l'integrazione, e tra questi anche dei criteri linguistici, però bisognerebbe fornire contestualmente la possibilità, gli strumenti per apprendere l'italiano. Teme dunque che questo provvedimento possa diventare alla fine una sorta di provvedimento punitivo? Ma è pensato così, purtroppo è pensato così, perché si prevede un obbligo di apprendimento che è collegato al rilascio, al rinnovo del permesso di soggiorno, e purtroppo non a un rinnovo di un permesso di soggiorno permanente, ma al primo rinnovo del permesso di soggiorno. La fretta è sempre cattiva consigliera. Imporre agli altri di imparare in fretta spesso non fa considerare che tutti abbiamo i nostri tempi di apprendimento. E poi sono diversi naturalmente i tempi di apprendimento per un cinquantenne da quelli di un ventenne, per esempio, quindi dovrebbero essere previsti anche degli strumenti che tengano in considerazione queste differenze. Purtroppo il regolamento non li prevede, dice a tutti dovete raggiungere un livello, il livello è quello che noi nei nostri corsi di italiano riusciamo a far raggiungere a tutti dopo 3 anni di scuola. E quindi è un livello alto, e non si distingue per esempio tra chi è ultra 65enne e chi ha 20 anni, non si distingue chi viene da universi culturali linguistici lontanissimi e chi viene invece da dietro le porte di casa nostra. Quindi noi avremo stranieri bravissimi che raggiungono subito il livello, ma non perché si sforzano di più, ma perché sono più vicini culturalmente, più attrezzati intellettualmente, e altri penalizzati. E poi avremo onesti lavoratori che non riusciranno nel tempo dato a raggiungere il livello richiesto. Professore, è chiarissimo, la interrompo un attimo perché con noi c'è il dottor Fouad Aoudi, il presidente dell'Associazione Medici Stranieri in Italia. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi. Buongiorno. Lei si sente integrato, dottore? Sicuramente qualche anno fa questa domanda non me la facevo, e adesso con tutti questi decreti che escono ogni giorno, noi che siamo arrivati e siamo venuti in Italia tanti anni fa come studenti, come me, tantissimi altri medici, ingegneri, infermieri, professionisti che lavorano tutti i giorni in Italia, è un esercito invisibile che fa onore all'Italia, visto che l'Italia le ha fatte integrare senza crediti, senza punti, senza esami continui, e responsabilizzandoli con il rispetto dei diritti e doveri, è stato anche premiato con una cittadinanza. Sicuramente ci sentiamo italiani, siamo italiani, abbiamo figli nostri italiani, e lavoriamo per un'Italia ancora migliore. Lei oggi è docente alla Sapienza, è arrivato a 18 anni, è il primo medico non italiano di nascita ad entrare nell'ordine dei medici italiani come consigliere, e di conseguenza ha tutti gli strumenti per valutare questo nuovo accordo. Quali sono le sue perplessità e quali invece considera i punti di forza di questa innovazione? Il professore prima ha analizzato molto bene insieme a lei anche alcuni punti di debolezza di questa proposta. Io inizierei sempre dai lati positivi, che insegnare la lingua italiana, insegnare la cultura italiana e far coinvolgere il cittadino di origine straniera nella società italiana è un fatto positivo, questo è un impegno nostro da anni. E anche all'Ordine dei Medici facciamo il corso e l'esame di lingua italiana a chi si iscrive presso l'ordine, una cosa ordinaria, non fa notizia, è un obbligo. La cosa che fa rimanere perplesso sicuramente il metodo in cui è stato proposto e la fretta in cui è stato proposto, e secondo me è stato proposto in modo generico a tutti senza considerare tre fattori importanti, che oggi come oggi bisogna fare un censimento per nel mondo del lavoro quanti lavoratori mancano, in quale settore mancano, in base a questo far entrare lavoratori di origine straniera in base alle esigenze del mondo del lavoro, in base a questo fare dei corsi di lingua italiana coinvolgendo le enti interessate, perché è giusto fare il corso di lingua italiana, ma è giusto fare il corso di lingua italiana in base al lavoro che uno andrà a fare. Questo ragionamento l'abbiamo fatto anche per i mediatori culturali, quando abbiamo chiesto ai mediatori culturali, sono stato io a proporre il protocollo per mediatori culturali, specializzarli, un mediatore culturale che andrà alla questura, non come il mediatore culturale che andrà in una scuola, è chiaro. In genere i patti d'accoglienza, perché così è ribattezzato questo provvedimento, dovrebbero prevedere uno scambio in due direzioni con diritti e doveri, cioè non sono una novità, non è che l'Italia abbia inventato nulla. Quello che succede in altri posti, però, a fronte di una richiesta all'immigrato si forniscono anche strumenti, penso alla Francia con le 400 ore d'apprendimento, penso al Canada dove i corsi per immigrati sono gratuiti e comprendono tutta una serie di agevolazioni anche per esempio per le donne, includono il babysitting, includono la possibilità di avere un assegno mentre non si lavora, e si forniscono questi corsi. Pensate che invece in Italia si prevede semplicemente un corso che va dalle 5 alle 10 ore. In due anni gli stranieri dovranno imparare come funzionano il Parlamento e il Governo, cosa dice la Costituzione, come si usa un congiuntivo, quali sono le regole civiche, questo è come sintetizzato da Repubblica del 29 luglio. Dopodiché gli stranieri regolari che hanno chiesto il permesso di soggiorno fanno la conta dei crediti acquisiti, ci sarà insomma una sorta di pagella. Con almeno 30 punti saranno promossi, otterranno la carta di soggiorno. Con meno di 30 punti ma più di 16 saranno rimandati, come a scuola, e avranno un anno di tempo per recuperare. Con 0 punti o meno, risultato a cui si arriva ad esempio con una condanna penale, scatta la bocciatura, che significa espulsione immediata. Questo l'accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato. 24 mattino estate. Il discorso naturalmente sull'integrazione degli immigrati ha una base soprattutto economica, se si tengono in considerazione quelle che sono le stime di presenze. Il 9,7% del PIL italiano viene dal lavoro, secondo la fondazione ISMU, dal lavoro degli immigrati. Per misurare il contributo dei lavoratori stranieri bisogna tener conto dei regolari, che sono a questo punto 3.677.000, e anche di quelli che hanno un impiego ma non ancora il permesso di soggiorno. Questi sono 651.000. Quindi a coloro che ci mandano messaggi inneggianti a Hitler, almeno un po' di originalità, ne abbiamo già letti in passato, a quest'ora del mattino, per svegliarci e stimolarci un po'. Pensate qualcosa di diverso. Poi c'è chi invece ci dice: non è la soluzione, ma un primo passo, non facciamo le cose più difficili di quello che sono, tutto è opinabile. Comunque, l'importante è cominciare. Si fa come per la patente, ci segnala un altro ascoltatore, si mollano un po' di soldi a qualche agenzia e si acquisiscono punti. In Italia alla fine è sempre uguale. Dunque, professor Morozzo della Rocca, si rischia anche questa Babele di interessi privati che si intrecciano? Professore? Anzi, direi molto, nel senso che il problema nasce dalla legge. Cioè, l'articolo 4 bis dice che per realizzare questo accordo di integrazione si provvede con le risorse umane disponibili e finanziarie senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Questo vuol dire in realtà, da una parte, che l'amministrazione dell'interno dovrà gestire un procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno più complicato di prima, con le stesse persone e con le stesse risorse. Questo creerà un problema. Ora, quando si avvia un'iniziativa, pur in astratto giusta, occorre prevedere i mezzi. C'è una riforma a costo zero? È una riforma a costo zero, ma faticosa, che dei costi strutturali ce li ha comunque, anche se noi non prevediamo un destinamento di risorse per questo. Poi c'è il problema di come gli stranieri apprenderanno l'italiano. Ora, se l'italiano è un corso che non viene fornito dalla pubblica amministrazione, loro si rivolgeranno a un mercato privato. E se il mercato privato non è regolamentato e non è facilitato l'accesso, questo provocherà non solo una babele dei costi, ma anche il rischio di una pubblicità ingannevole. Parliamo di persone che proprio perché hanno bisogno di imparare l'italiano difficilmente potranno distinguere, non avendo tra chi è qualificato, chi è in grado di aiutarli e chi no. Grazie al professor Morozzo della Rocca. Un giro a tutti gli ascoltatori, purtroppo devo invitarvi alla sintesi da Brescia. Pronto, buongiorno. Io buongiorno. Ibrahim, sì, prego, dai. dica. No, io la cosa che mi stupisce un pochino è che come mai pensano sempre di fare delle normative senza verificare quelle che porta per esempio sulla vita dei migranti. Perché io credo che adesso anche con la carta di soggiorno, che c'è l'esame di italiano, dove magari gli immigrati, magari il governo pensa che gli immigrati nascono sono dei geni, no? Sono persone che sanno tutto, perché non c'è un percorso di formazione per poter arrivare all'esame in italiano. Adesso il permesso a punti, un'altra beffa, perché se una persona dopo 20 anni che lavora, che ha comprato la casa, che ha i figli che vanno a scuola, che ha i contributi versati, magari perde i punti, la cosa che dicono è che questa persona deve e si trova penalizzato. Grazie Ibrahim per questo stimolo. Sentiamo invece da Udine. Pronto, buongiorno. Buongiorno, sono... Buongiorno. Sì, dica. Buongiorno, sono Said. Buongiorno a tutti. Sì. Io sono d'accordo di fare un percorso educativo a tutti gli extracomunitari per accettare comportamento civile con un paese civile come Italia. Quindi lei è completamente d'accordo anche con questa proposta del soggiorno a punti e del test italiano. Dico bene, Said? Sì. Perché dice deve essere bilaterale l'accordo. Certo. Grazie mille e l'impegno. Grazie a Said. Adesso il dottor Fouad Adi ha sentito questi stimoli, così li abbiamo definiti, questi input che ci vengono anche dai diretti interessati. L'integrazione si fa in due, questo è quanto spesso viene sostenuto anche dall'Associazione Medici Stranieri. Sì, si fa in due, ma non si certifica con i crediti, con i punti. È lo strumento più sbagliato, far sentire lo straniero è immigrato per sempre. L'immigrato ha i suoi doveri, ma ha anche i suoi diritti. L'immigrazione in Italia è recente rispetto ad altri paesi, non si può paragonare le problematiche francesi o altri paesi come quella italiana, perché prima venivano studenti, studiavano tutti la lingua italiana per accedere alle università italiane, poi dopo la caduta del muro di Berlino iniziarono a venire i lavoratori possono avere età di 20 anni o 60 anni, possono avere anche le loro mogli, possono avere anche i loro figli, per questo l'immigrazione ha altre problematiche. Bisogna purtroppo, quello che è mancato in Italia negli ultimi anni, programmare l'immigrazione, risolvere le questioni degli immigrati in base alle esigenze, man mano, non fare leggi generici e poi bisogna vedere il momento che vengono applicate queste leggi, come vengono applicate, vengono recepite. L'Italia deve cambiare radicalmente il suo sistema come immigrazione. La via comunque è la programmazione, questo sì. Quanto da lei indicato. Lorenzo Rocca, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a lei e ai suoi ascoltatori. Lorenzo Rocca fa parte dell'Università di Perugia, uno degli istituti che può certificare l'acquisizione dell'italiano L2, cioè acquisito non come lingua madre. Secondo lei, lei che è un tecnico che lavora su queste cose, il testo di questo decreto e di questa innovazione che permetterà il permesso di soggiorno appunti a coloro che supereranno l'esame di lingua, va nella direzione giusta? Ma io credo che l'aspetto cruciale sia stato già anticipato dal professor Molozzo e anche da lei, nel momento in cui entrambi avete posto in evidenza la lacuna è fondamentale da parte del legislatore legata all'assenza di un percorso formativo. Cioè, se il legislatore con una mano chiede, con l'altra deve offrire un percorso, strumenti, iter di formazione adeguati, pensando in particolare alle fasce a minor scolarità, che oggi rappresentano più di un terzo della popolazione migrante presente in Italia, e a quelle sacche di analfabetismo anche nella lingua materna che non riusciranno mai in 2 anni a raggiungere un sia pur livello minimale di apprendimento della lingua. E dunque italiana. Cosa bisognerebbe fare? Ma sicuramente prendere esempio, le cito due dati, le riporto due dati relativi non già alla lontana Canada, ma anche agli stessi paesi membri del Consiglio d'Europa. Oggi il 75% dei paesi membri del Consiglio d'Europa prevede test per l'inclusione sociale, vuoi per il permesso di soggiorno, per il lungo soggiorno e anche per la cittadinanza. Sì, ma qual è la differenza allora con l'Italia? È che di questo 75% dei paesi ben l'82% prevede percorsi formativi gratuiti legati alla preparazione di questo test, quindi che agevolano il percorso del potenziale futuro candidato. E quanto durano questi percorsi formativi? Ma vanno dalle 150 ore alle 400 fino alle 800 ore in Germania. Per esempio. Quando lei ha detto lontano Canada, io citavo il Canada perché li ho dovuti seguire questi test a mia volta. La differenza in questi casi è che poi il percorso porta all'acquisizione della cittadinanza in tempi brevi. Quindi quando il dottor Fouad Aoudi diceva non si può far sentire l'immigrato sempre fuori posto, sempre sotto esame, a un certo punto questa pressione in altri paesi termina e chiaramente si va dai 5 anni, 2 anni e mezzo, dipende da quale paese facciamo riferimento, il percorso lungo come in Italia, difficile, a ostacoli, anche perfino per chi è nato in Italia, è un po' un unicum. Leonardo, buongiorno, l'ultimo ascoltatore, velocissimo. Buongiorno a voi, buongiorno. Leonardo Vanassing, lei chiama da Milano, esatto. È italiano? Sì, sono italiano. Italiano però da italiano diciamo di nascita, ma non a livello burocratico. Italiano perché è nato a Milano, ho studiato qua, ho concluso appunto quest'anno il mio corso di studi, mi sono diplomato al liceo scientifico, ma italiano solamente a 18 anni. E l'hai pesato? L'hai pesato questo doppio binario? Doppio binario sicuramente è pesato più che altro a livello burocratico. Sicuramente Leonardo, abbiamo 30 secondi, mi spiace spingerla a sintetizzare. È pesato perché mi è dispiaciuto non avere la possibilità che hanno altri miei coetanei nonostante io sia nato qua. Ecco, è questo il peso che portiamo a livello generale noi studenti, cioè noi giovani figli di immigrati che siamo nati qua in Italia. Lei ha concluso il liceo, studierà in Italia? No, studierò in Olanda, andrò a studiare all'estero e comincerò appunto l'ingegneria civile. E per integrarmi lì ovviamente dovrò seguire dei corsi di lingua. La durata di questi corsi di lingua sarà di 1 anno, sono previsti 5 corsi, alla fine dei quali sono previsti appunto dei relativi esami. E quindi le forniranno gli strumenti una volta laureato per rimanere nel paese e diventare anche una risorsa di quel paese. Grazie Leonardo per questa finestra che ci ha aperto su un'altra importante realtà europea. Il problema è che per aumentare la competitività anche dell'Italia bisognerebbe aumentare l'internazionalizzazione di questo paese. Sulla lingua di svarione ne facciamo tutti, io inclusa, quindi non mi piace puntare il dito, ma ci chiediamo quanti di questi di noi italiani di nascita poi riuscirebbe a superare i test. Noi ci risentiamo domani mattina sempre alle 7:15 con 24 Mattino. Una buona giornata da Irene Zerbini.